Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, bel respiro e un po' di yoga finanziario, perché il tema è uno, meglio, ce ne sarebbe anche un secondo che si chiama rapporto con l'Europa. Domani arriveranno le previsioni sulla crescita economica da parte di Bruxelles, di nuovo oggi un po' di botte e risposte e molte indiscrezioni sui mal di pancia europei e anche dei paesi, non solo di Bruxelles, nei confronti dell'atteggiamento italiano giudicato polemico e quant'altro. Ne parleremo anche perché oggi il ministro Padoan ha in qualche modo risposto a Manfred Weber, capogruppo del PPE al Parlamento europeo, che aveva attaccato Renzi dicendo i margini di flessibilità sono finiti. Già a gennaio Weber aveva attaccato Renzi dicendo che metteva a rischio la credibilità dell'Unione Europea a vantaggio del populismo. Dicevo, oggi Padoan in parte ha risposto sottolineando che l'incertezza non aiuta. Poi lo sblocco della quota italiana dei 3 miliardi da dare alla Turchia. Non sono 3 miliardi italiani, l'Italia ha una quota di questi 3 miliardi, però aveva messo il veto su questo. Questo è uno degli altri temi. E non sfugge a nessuno però che il tema vero si chiama di nuovo borsa. Allora, abbiamo raggiunto il numero uno del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, ascolteremo l'intervista dopo le 18, alcune anticipazioni le agenzie le hanno già battute, altre le faremo uscire a mercato chiuso. E vi posso anticipare che Viola dice vabbè, la borsa è sempre un termometro, ma abbiamo 10 miliardi di patrimonio, non riesco a dormire nonostante questa borsa. Detto questo, oggi la giornata è un'altra giornata di passione, nel senso che non è nemmeno il Monte dei Paschi il peggior titolo, la borsa complessivamente perde il 3,30, anche qui Parigi perde il 2% come Francoforte, quindi che vadano male tutte le borse europee è un dato di fatto. Londra meno 1,30, l'America meno 0,70. Che però, e questa mattina Tokyo meno 3,15, Hong Kong meno 2,30%. Che però Milano perde un punto e mezzo, un punto, 1,3, più delle altre borse europee, e che questo punto, 1,3, lo perda soprattutto per il settore bancario, è un altro dato di fatto. Nel caso specifico, il Banco Popolare meno 10,42%, UbiBanca meno 9,60%. Oggi è stata una seduta di una volatilità estrema, titoli sospesi per eccesso di volatilità, borsa che poi girava e sembrava, non dico chiudere in positivo, ma recuperare molti dei cali, poi di nuovo lo scivolone. UbiBanca meno 9,40%, resto sui bancari, Popolare Emilia Romagna meno 8%, Anima Holding meno 7%, Monte dei Paschi meno 6,70%, Pop Milano meno 6% come Unicredit, Intesa San Paolo meno 5,5% e Mediobanca meno 5,30%, Unipol meno 5%. Poi va male anche Iux Net-a-Porter, che nulla c'entra col mondo bancario, meno 8,70%. Va male anche un titolo come Fiat, meno 4,40%. L'energia vede perdere Enel il 2,60%, Eni l'1%. Si salvano Ferragamo più 0,60% e se vogliamo anche Italcementi e Tods, che perdono solo lo 0,20%. Ferrari oggi contiene il calo, meno 0,80%, A2A pure, Terna meno 0,90%, Luxottica perde solo l'1%, per cui oggi veramente basta scorrere le posizioni, è tutto sul mondo bancario in Italia il calo. Faccio notare che il Banco Popolare, nonostante l'annuncio di fusione con la Popolare di Milano, è il peggior titolo oggi in assoluto, cioè il 10,36% che sta perdendo la banca di Saviotti e Frattapasini segna il peggior andamento di tutta la borsa di Milano. È strano una cosa del genere, e ne parleremo anche con chi opera sui mercati finanziari. Vanno male anche Generali e Mediobanca, ci mancherebbe. Quindi, e dopodiché rinvio anche l'intervista a Viola per quello che riguarda l'andamento del Monte dei Paschi e con chi dovrebbe, tra virgolette, sposarsi il Monte dei Paschi di Siena. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La domanda di fondo, a mio avviso, resta questa. E cioè, sappiamo tutti che ci sono 200 miliardi di sofferenze lorde, che poi sono 80 ancora da rettificare. Sappiamo che finché non vi sarà il decreto attuativo sulla bad bank, sulle bad bank e su come le banche potranno accelerare il recupero dei crediti, il mercato resterà scettico. Standard & Poor's ha detto ieri: non vi attendete una soluzione di tutti i problemi. Tutto quello che volete, però abbiate pazienza. Se qualcuno mi chiedesse una causa oggettiva, esterna, nota, per cui improvvisamente le banche italiane vanno così male rispetto a dicembre e novembre in cui venivano comprate, non c'è. Ora uno poi può dilettarsi in speculazioni. Questa è la risposta ai mercati internazionali, alla posizione italiana in Europa. Vogliono gli investitori, gli speculatori abbattere il valore delle banche perché così potranno comprare le loro garanzie a un prezzo di sconto, perché le banche a un certo momento dovranno andare a vendere, non dico gioielli, ma insomma le garanzie a un prezzo di sconto, oppure vogliono comprare le banche stesse a un prezzo di sconto. È un messaggio politico contro Renzi, contro l'Italia, quello che volete. Ognuno può divertirsi, tra virgolette, a immaginare lo scenario più probabile. Quello che è certo è che nulla è cambiato nelle sofferenze bancarie come ammontare, né nelle prospettive di crescita debole del paese, per cui se un motivo oggettivo non c'è. E assistere a sedute intere senza soluzione di continuità, di cali continui in assenza di notizie, a me fa venire in mente solo ed esclusivamente una speculazione. Chi la deriga e quale sia l'obiettivo non è dato sapere a questo conduttore e forse neanche a altri soggetti. Andiamo con le altre notizie in breve. Ritengo che vi sia un messaggio politico, un avvertimento all'Italia, un po' come avvenne con lo spread a suo tempo nel 2011. Ripeto, non lo so. Avessi qualche elemento per dire, posso notare una coincidenza tra l'apertura così delle ostilità, chiamiamole così, dello scontro con l'Europa e l'andamento della borsa? Sì, posso anche notare una coincidenza con quanto è accaduto col decreto sulle popolari a fine novembre, inizio dicembre. Sì, anche se a dicembre poi in realtà non è che abbiamo assistito a questo grande calo dei titoli bancari. Tutto è iniziato con gennaio, come ricorderete, prima la Cina, il petrolio. Alcuni dicono stanno cucinando il caro Premier come accadde con Berlusconi. Non lo so, nel senso noto che obiettivamente non c'è una notizia nuova. Non ci sono peggioramenti delle sofferenze, i dati sulle sofferenze erano noti anche a novembre, dicembre. Che sia speculazione mi sembra ovvio. Dove voglio andare, questo non lo so. Poi su tutto questo si innesta anche il calo generalizzato d'Europa, non voglio dire che cali solo Milano, però ragazzi, un conto è perdere l'1,90 come fa Francoforte senza coinvolgere tanto le banche come fa Parigi l'1,70, un conto è perdere il 3% con banche che anche oggi lasciano il 9%, penso a Banco Popolare e Ubibanca, il Banco Popolare lascia anche il 10% oggi, no? Cioè, non ha un senso da un punto di vista delle notizie uscite, o c'è qualcosa che ci sfugge riguarda tutto il mondo bancario italiano, o c'è un quello che si chiama mood, un consensus, cioè un atteggiamento completamente ribassista nei confronti delle nostre banche. Ripeto per la terza volta, il motivo che abbia fatto scattare questo mi sfugge. Qualcuno scrive è il decreto del 22 novembre. Sì, andiamo a vedere i valori di borsa, però, perché dal 22 novembre a dicembre non c'è stato il tracollo delle banche italiane, è iniziato a gennaio Per cui, perché la settimana dopo il 22 novembre non inizia a vendere, e anche a dicembre, quando le garanzie vengono svalutate al 17%, che quel decreto sia stata una cavolata nella gestione politica da parte del governo, nel non capire che cosa avrebbe scatenato, anche la Banca d'Italia, forse che non ha informato correttamente il governo di cosa stava succedendo, lì qualche problema di comunicazione c'è stato. Poi io capisco che adesso il Presidente della Repubblica abbia fatto capire che la Banca d'Italia non si tocca, se no viene giù il sistema, ma non si può neanche dire che la Banca d'Italia si può sempre chiamare fuori, perché o dice esplicitamente che aveva spiegato al governo e insistito con il governo, o se no il tempismo è tutto in politica e in finanza. Ma detto questo, ripeto, nelle settimane successive al 22 novembre non abbiamo, sì, abbiamo visto un po' di correzioni, ma niente di particolarmente traumatico. L'euro in rafforzamento a 1,10 per quello che riguarda, adesso vi darò anche i valori, così parliamo di valori. Allora, prendiamo il titolo che oggi va peggio, il Banco Popolare, che perde il 10%. Andamento del titolo dopo il decreto di novembre, fermo, ok? Perché il 23 novembre il titolo valeva ancora, eccolo qua, perché 13,54 si mantiene sostanzialmente su quel livello fino a gennaio, ma inizio sì, cala un pochino, però il 29 dicembre siamo ancora a 12,96 euro, ok? 29 dicembre del 2015, chiaramente. A quanto è il titolo adesso? Beh, il titolo adesso è a, vi do l'ultimo aggiornamento, 7,88 euro. Allora, voglio dire, il titolo è sostanzialmente stabile dal 23 novembre al 29 dicembre, cioè nel mese successivo al decreto sulle quattro banche popolari, si muove di mezzo euro, e adesso è sceso a 7,88 euro. Se mi dite che c'è un motivo intervenuto, a meno che, ripeto, non voglia vedere una polemica, una speculazione orientata politicamente per far capire all'Italia che deve tornare nei ranghi, non può alzare la testa con Bruxelles. Adesso la borsa sta correggendo, meno 2,50%. Mi scrive un ascoltatore: a lei sfuggono tante cose. Sì, però riconosco con onestà che se non capisco le cose lo dico, non faccio come certi soloni, come certi ascoltatori che hanno sempre le risposte su tutto, sempre, mai un dubbio che li attraversi per sbaglio. Adesso analizzeremo anche con chi opera sui mercati finanziari cosa sta capitando. Vorrei solo parlare, anzi io direi una cosa, Padoan lo facciamo sentire dopo, la polemica con Bruxelles la facciamo sentire dopo, andiamo a parlare subito di borsa, perché tanto oggi questo è il tema della giornata. 349-238-6666 per gli sms e per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Guardate che la letterina di Bruxelles, che poi non è di Bruxelles ma era quella della BCE, è stata una... sapete che io difendo Draghi, anzi difendo, ritengo che Draghi sia l'unico grande statista che c'è in questa Europa di nani, però abbiate pazienza, quella è stata un passo falso, è stata uno scivolone, nel senso che in un momento di così alta tensione non chiarire che quella lettera la inviavi a tutte le banche vigilate e non chiarire che non era una lettera rivolta alle banche italiane affinché aumentassero il patrimonio ha scatenato ulteriore tensione, speculazione e in alcuni casi anche panico. Poi l'ha chiarito Draghi, l'ha chiarito, ma è stato un errore, adesso diciamocelo tranquillamente, sbaglia anche la BCE ogni tanto, un errore sul tempismo e sulla sensibilità. Comunque Padoan dice che non c'è speculazione, adesso andremo, vedo i messaggi degli ascoltatori. Sì, Padoan, adesso vediamo se dicono, vediamo cosa dirà Padoan nei prossimi giorni. Vogliamo sentire Padoan quando dice permettetemi di sollecitare il nostro sistema bancario e finanziario ad approfittare di un'Unione Europea più forte e integrata. Ascoltiamolo. Cito sicuramente la proposta, l'agenda sulla Capital Markets Union, sull'unione dei mercati dei capitali, che è una grande opportunità su cui sicuramente gli ins e gli outs dell'Europa, i membri e i non membri dell'Unione Monetaria hanno un interesse comune. È una grande opportunità, fatemelo dire, anche per il nostro Paese. È un'opportunità per il nostro sistema finanziario, il nostro sistema bancario, di adeguarsi ad una nuova dimensione europea e globale e anche adeguarsi a nuovi sistemi di regole che si vanno definendo. Quindi permettetemi di approfittare di questa occasione per incoraggiare il nostro sistema bancario e finanziario di approfittare di un'Europa più forte e più integrata anche in questo campo. Ma si tratterà di vedere come in concreto l'unione bancaria, cioè il sostegno bancario della moneta unica e il mercato dei capitali unico, si possano sostenere a vicenda, e credo che questo sia un classico caso in cui i benefici comuni sono di gran lunga superiori agli eventuali costi di aggiustamento. Allora sì, c'è anche qualcos'altro che mi sfugge. Vedo gli ascoltatori che scrivono: guardi che dal 1 gennaio c'è il bail-in. Ho capito, lo sappiamo tutti che c'era il bail-in. Forse qualcuno si è distratto. La Banca d'Italia adesso scopre che il tempismo inaccettabile, sentire dire quello che ha detto, lo dico come giudizio personale, non è possibile ascoltare la Banca d'Italia dire ripensiamo i tempi del bail-in. È da 2 anni che sappiamo che deve arrivare questo bail-in. Dopo il caso Cipro bisognava dirlo in maniera molto forte prima. Ci sono tanti modi, il governatore può fare interviste, può fare dichiarazioni, può venire in studio, può fare interviste da sole 24 ore, fare quello che vuole, ma non si può dire al Forex sabato scorso, bisogna ragionare sui tempi di applicazione, adesso. Comunque, detto questo, il bail-in lo sappiamo tutti che c'è, faccio notare che alcuni mi dicono, guardi che è come l'attacco del... sullo spread, vogliono darci un messaggio per dire vi mettete in riga o finite come la Grecia. C'è qualcosa che non torna però, faccio un esempio su tutti: lo spread italiano in questi giorni in cui crollavano le banche non si è mosso, è a 118 punti oggi. Abbiamo collocato la settimana scorsa botta 6 mesi per 6 miliardi a rendimento negativo, cioè vuol dire che gli investitori anche stranieri si sono comprati il debito italiano a 6 mesi e ci vanno a perdere sul valore nominale. Il BTP a 10 anni ha toccato un rendimento all'1,4% a 10 anni, per cui non c'è negli investitori internazionali la paura, il rischio Italia, come si chiamava ai tempi dello spread a 500 punti e passa. È proprio un attacco specifico e concentrato sulle banche. Poi le altre borse calano, c'è il petrolio, c'è la Cina, va bene, ma parlo delle nostre banche. Vorrei capire se condivide questo giudizio chi sui mercati opera tutti i giorni, oppure magari ci sta sfuggendo qualcosa. Andrea Cutri, vicepresidente di Antilia SGR, buonasera. Buonasera. Allora, mi dica, lei magari qualche spiegazione ce l'ha? Beh, ce ne sono tante. Questo è un mercato fatto di flussi, fondamentalmente, molto poco di fondamentali. C'è un corale alleggerimento, se non uscita, dal settore bancario italiano. All'inizio dell'anno il mercato italiano perde quasi 17 punti, il settore bancario italiano perde 32 punti, questo dall'inizio dell'anno, passati un mese e due giorni. Cioè meno 17% fa la borsa, meno 32 fanno i titoli bancari. Esattamente, quindi questo rende palese uscita e una mancanza di fiducia nel settore e in particolare in alcuni nomi che... ben conosciamo evidentemente, quindi quelli che hanno sofferto di più. Però in giornate come quelle di oggi, per esempio, c'è il fuori tutto, come lo chiamo io, nel senso che Intesa, che ha dimostrato in tutti i modi di essere la più solida tra le banche italiane e anche tra le banche europee, possiamo dirlo ogni tanto, e anche tra le banche europee, solo perché è rimasta molto indietro nella discesa che ho appena menzionato, oggi è stata arrivata a essere sospesa a meno 8, senza nessun vero motivo, evidentemente. Quindi, allora, non avrebbe senso sospendere vendita allo scoperto? Cioè, se stiamo dicendo che sono speculatori, io la Consob, l'ho definita eterea. Sto ancora aspettando che la Consup ci dica, ma forse ho perso io le agenzie, chi comprò e vendette il Monte dei Paschi in quella maniera, le mani in estere, boh, più saputo niente. Personalmente sono contrario alla sospensione di questo tipo. Mm-hmm. Sì. Se un mercato deve muoversi, deve poter muoversi in tutte le direzioni. Dai, c'è meglio farlo sfogare? Sì, o comunque diciamo che i regolatori, come lei menzionava prima in trasmissione, e i governanti diano certezze e messaggi chiari, ecco, perché stoppare le contrattazioni o vietare le vendite allo scoperto è un palliativo, l'abbiamo visto anche in passato, dura qualche settimana e poi siamo di nuovo lì. Le ricordo il caso della Russia. La Russia nel momento di grande difficoltà ha chiuso i mercati finanziari per 3 settimane. Per molti investitori anglosassoni, ancora oggi la Russia è un mercato non investibile per quell'episodio. Quindi da questo punto di vista le regole di mercato devono essere uguali e per tutti. Quindi lei dice sospendere non serve a niente. No. Non è un po' pesante come alleggerimento, però mi scusi, perché io capisco l'alleggerimento, ma il 32% vuol dire avere ridotto di un terzo la capitalizzazione di borsa di banche, che ripeto, non voglio parlare di tutte perché sarebbe sbagliato, ma noi sappiamo che ci sono stati gli stress test, ci sono i dati, la patrimonializzazione, molte banche in Italia hanno parametri assolutamente europei, eppure vanno male anche quelle. Cioè, quello che sto dicendo è che non c'è nessuna distinzione in sto mercato, no? Come diceva lei, se un titolo resta un po' indietro, lo abbatto il giorno dopo. Non è una scelta, è una livella. Sono assolutamente d'accordo, ma se io gli dicessi che oggi, stasera, Intesa San Paolo capitalizza 2 volte Deutsche Bank, lei cosa mi viene a dire? È una cosa che sta succedendo a livello europeo, non è solo italiano. Poi ci sono, sì, abbia, diciamo, pazienza, le risponderei che Deutsche Bank ha avuto una perdita di 6,7 miliardi nel 2015, Intesa San Paolo no. Sono io troppo vecchio a ragionare ancora sui bilanci? Però, no, chiedo. No, però diciamo, gli asset e le dimensioni delle due banche non sono esattamente comparabili. No, per carità. E quindi questo per dire che il mercato si focalizza su dei nomi in particolare difficoltà, evidentemente. E questo lo si vede chiaramente nelle performance diciamo, delle banche dall'inizio dell'anno al peggiore. È ovviamente il Monte Paschi con meno 55, poi c'è UBI, Unicredito, Popolare, Emilia Romagna, quindi 5 tra le 10 peggiori banche del settore europeo sono dall'inizio nostre. Dell'anno sono queste italiane che ho appena menzionato, evidentemente. Allora, senta una cosa, Cuturi, mi scusi, dopo il metodo e la pubblicità le chiederò, allora, abbiamo capito che c'è un'ondata ribassista, come la chiamate voi, bearish, come dicono gli inglesi, cioè in cui prevale l'orso e non si salva niente. Tant'è che le citava l'esempio di Intesa San Paolo per dire un titolo che non ha motivo, se i bilanci hanno ancora un senso in questo mondo, solo perché era rimasto un po' indietro, oggi il mercato lo riposiziona, diciamo, lo rilivella vendendo a man bassa. E non è una gran logica, cioè è una logica da monkey business, così uso il secondo inglesismo, da scimmia, no? Non è una grande logica di analisi sul titolo. Siamo però sicuri, visto che anche lei ricordava come i peggiori titoli europei sono le banche italiane, che non ci sia una scommessa un po' diversa a medio termine? Cioè che non si, io ho capito, lei dice, guarda, si è diffusa questa cosa per cui nessuno si mette contro il mercato. Però lei si sarà fatto qualche domanda, e vorrei la risposta dopo il meteo, se in realtà non ci sia, non dico un progetto, un grande fratello, a me non interessa, ma un obiettivo un po' più di medio termine, che non sia solo il vendere perché così fan tutti o così fan tutte. Dopo il metodo la risposta. Focus Economia. Minuti. Allora, l'idea che vi possa essere un interesse in questo abbattere continuamente il valore delle banche italiane, dottor Cuturi, lei ce l'ha oppure ritiene che sia solo, come dite voi, mainstream, cioè tutti vendono e a questo punto, non ci si mette contro, anche perché continuano a scrivere gli ascoltatori, guardi che dal 1 gennaio c'è il bail-in. Ma scusatemi, se la finanza, anche qui è ancora quella di una volta, la finanza ha questa grande caratteristica di posizionarsi prima, cioè si dice compra sui rumors in inglese e vendi sulla notizia. Per cui, siccome bail-in non è che l'abbiamo, non se ne sarà accorta la Banca d'Italia per tempo, ma è un anno che sappiamo che arriva. Se io fossi stato un investitore, avrei venduto titoli a valore molto più alto, cioè quando valevano 30% in più in media a novembre, dicembre, immaginando che poi tutti avrebbero avuto paura. Non lo tengo in portafoglio fino all'inizio gennaio, quando il bail-in diventa effettivo, o anche qui sono troppo vecchio. Cuturi. Allora, prima di tutto, come dicevo prima, è un mercato che si autoalimenta, quindi flussi che sono molto alti, i volumi sono alti e che tendono ad autoalimentarsi. Poi quello che stiamo commentando stasera non è altro che l'opposto esatto di quello che abbiamo visto all'inizio dell'anno scorso. Da gennaio a giugno dell'anno scorso il settore bancario italiano, quindi l'indice delle banche italiane, ha fatto più 50%. Da quel più 50%, quindi quel numero indice che è arrivato a 18.500, questo indice ha perso il 43% a stasera, in questo momento. Dall'inizio dell'anno, come dicevo prima, questo indice ha perso il 32% circa. Quindi è esattamente l'opposto di quello che abbiamo visto prima. Riforme, aggregazioni, qualità del credito che migliora, tutti dentro e si autoalimenta. Diciamo, le autorità partoriscono il topolino, che sia il bail-in, che sia le altre cose, o la riforma che poi dovrebbe produrre un'aggregazione del sistema, eccetera, eccetera, non si implementa e la gente esce e produce questi movimenti così importanti, che tendono ad acutizzarsi, come in questa fase, dall'inizio dell'anno, quindi molto forte, proprio perché sono autoalimentati, cioè molto day trading che chiude posizioni alla fine della giornata. Sicuramente diciamo, la compagine degli azionisti, per esempio del Monte Paschi, è cambiata nel tempo, ma a botte del 5, 6, 7% al giorno scambiato, evidentemente diciamo che sarebbero cambiati tutti gli azionisti più volte. Invece è sempre quel 10-15% magari che passa di mano, che viene scambiato sul mercato e che viene utilizzato dai scusi, quindi lei, Cuturi, tende a escludere, come appunto operatore, come gestore di un SGR, che vi sia un obiettivo di medio termine un po' più tattico, quantomeno, non voglio dire strategico, ma tattico, cioè dare un messaggio al paese, dare un messaggio alle banche, dare un messaggio all'Italia, dare un messaggio alla politica. Questo avviene attraverso un altro termometro che lei menzionava prima, che è lo spread. Sì. Esatto, e lì è tutto molto tranquillo, evidentemente. Sì, infatti, quello che è successo, guarda, che l'unica cosa appunto che mi fa dire non capisco che messaggio politico possa essere un messaggio in cui ti accanisci sulle banche ma lasci lo spread invariato e il governo italiano riesce a rifinanziarsi con pagando il minimo storico. Boh, mi sfugge il messaggio, però prego. Io non sono, diciamo, sono contrario a tesi complottiste, dietrologhe che non capisco neanche, sinceramente. Vedo i prezzi e i prezzi mi dicono certe cose. E secondo lei quando si invertirà? Aziende private, anche se sono aziende private, hanno un destino che non è governato dal governo. Il governo può cambiare alcune regole del gioco, questo è il tema famoso delle aggregazioni tra le popolari. Il mercato può decidere che ci sia valore o meno che nel cavalcarle. In questa fase si sta facendo molto ribasso, per esempio oggi, diciamo, è partita una sorta di negoziazione ulteriore tra il Banco Popolare e la BPM, ma è mia ferma convinzione che da qui a 15 giorni questa operazione sarà conclusa. Ne dico una, poi il Monte Paschi è sicuramente l'anello debole in questo momento. E poi sentiremo Viola. Sì, no, no, nel senso che è nostro ospite, per cui in questo senso lo sentiremo. Allora sarò felice di ascoltare Viola e di capire diciamo, come sono andate le cose da qui a inizio anno. Diciamo, in modo molto puntuale, Montepaschi ha fatto delle puntualizzazioni sui suoi numeri a fine anno. Io credo che per come si muovono velocemente i mercati sarebbe opportuno dare dei numeri anche a fine gennaio, così il mercato si tranquillizza. Se c'è da tranquillizzare. Sì, anche se la settimana scorsa Montepaschi è uscito con delle anticipazioni sull'utile, il ritorno all'utile, che avrebbe dovuto avere questo effetto. Comunque, ho capito il suo ragionamento. Scusi, questi sono numeri a 31-12. Io parlavo invece di quello che ok, no, ho capito. Lei dice, in questi casi comunicate anche come glielo chiederemo a Viola, se come va i flussi di depositi e quant'altro. cioè come sta andando la situazione in queste ultime settimane. Resti con noi perché adesso vorrei anche introdurre per un commento complessivo sulla giornata, ammesso che si possa fare un commento complessivo sulla giornata, come sempre i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, al di là dei bancari, perché adesso dei bancari poi parliamo dopo le 18 con il numero 1 del Monte dei Paschi, con Viola, per cui so, oggi è andato giù tutto, anche UX Net a Porté meno 8,30%, ripeto, anche le altre borse europee hanno chiuso, meno 1,30 Parigi, meno 1,50 Francoforte, meno 1,30 Londra, adesso l'America invece è in positivo, Milano ha fatto meno 2,85%, però dicevo UX Net a Porté e poi Mediobanca e generali, possiamo concentrarci su questi tre titoli? Ma sì, diciamo che come dicevi giustamente tu è venuto giù tutto, sorprende il calo di UX Net a Porté perché la moda è stata sostanzialmente l'unico settore che oggi sostanzialmente ha tenuto, questo grazie ai dati dati ieri a mercati chiusi delle VMH, dati positivi dal punto di vista dei flussi di cassa, e quindi Ferragamo e Tod's sono avanzati rispettivamente dell'1,4 e dello 0,7%. Per quanto riguarda invece Mediobanca, insomma è tutto il comparto bancario che oggi ha subito dei ribassi pesantissimi, forse Mediobanca è la migliore tra le banche. Perché no, ma perché su generali c'era stato un po' di movimento dopo la notizia che si erano incontrati il presidente generale Gabriele Galateri e Clemente Rebecchini, direttore generale di Mediobanca, no? Che è anche i vicepresidenti generali? Sì, diciamo che oggi c'è stata fatta una prima ricognizione insomma, per la sostituzione di Greco, però qui è noto che il Consiglio di amministrazione che dovrà fare il punto sulla cosa è il prossimo 9 febbraio, calcolavamo un po' quanto ha perso generale dall'addio di Greco, in tutto ha perso 7 miliardi e mezzo di capitalizzazione. Sì, attenzione, in un mercato completamente ribassista, sì, nel sì, senso che bisognerebbe poter vedere quanto ha perso, diciamo, in un mercato positivo, avesse perso 7 miliardi in un mercato piatto o in crescita sarebbe stato veramente una notizia, non, bisognerebbe scorporare qual è l'andamento del mercato complessivo. A questo proposito resta diciamo che comunque ha perso il 27% generale. No, esatto, e non è una banca, e non è una banca. E beh, ragioneranno poi quelli di Mediobanca, se come tutte le indiscrezioni puntano a dire il problema di Greco è stato il rapporto con Mediobanca e con Nagel. Però su questo Couture, no, cioè non su Mediobanca e su generali, un'ultima domanda ce l'ho per lei. Lei oggi ha comprato o ha venduto? Io oggi ho comprato e venduto. Ho venduto questa mattina e ho ricomprato oggi pomeriggio. E ha guadagnato? Fatto... Sì, su questa operazione sì, complessivamente nel portafoglio qualcosa. Ma cosa ha venduto e cosa ha comprato? Banche, industriali? No. Indici, futures. Futures sugli indici? Sì, certo. Sì, sì. Ma lei quando è che tornerebbe a ricomprare banche? Guarda, io ho una posizione lunga banche e corta assicurativi, in spread montata... Cioè, tradotto in italiano vuol dire che lei va a vendere gli assicurativi e è più fiducioso sulle banche? Sì, esatto. Quindi nell'ambito dei finanziari vedo un'opportunità di valutazione sulle banche e, diciamo, per non avere una scommessa troppo direzionale, copro questo rischio vendendo allo scoperto il future settoriale sulle assicurazioni. Questa è un'operazione che ho messo su negli ultimi, diciamo, 10 giorni, per il momento non è di grandissimo successo, ma sono convinto che nel medio termine, nel senso che ci sono... Ma quindi anche voi ogni tanto... Le banche sono scese un pochino di più, le banche sono scese un pochino di più, ma questa è... Per cui diciamo lei è cautamente positivo sulle banche, se no non sarebbe lungo sui bancari. Assolutamente. Guardi, il settore europeo tratta a 0,5 il tangible book value. Inizia a essere una valutazione che io ritengo quasi di stress. Abbiamo quasi? Visto anche zero, di grande stress, mettiamola così, per dirla in italiano. Detto questo, che abbiamo visto anche numeri più bassi di questo multiplo, ma erano i momenti bui del 2011 e del 2008. Il settore bancario da quei livelli è poi continuato a salire. Io credo che... da qui a alla fine del trimestre, quindi da qui a fine marzo, un pochino di questa eccessiva volatilità verrà riassorbita e a quel punto si tornerà a guardare alle valutazioni e non solo ai flussi che si muovono. Quindi può darsi che bisogna tenere un pochino i denti stretti qualche settimana, ma si dovrebbe presto tornare a ragionare. Se così non dovesse essere, chiedo scusa, io credo che un eccesso di negatività dei mercati possa alimentare a quel punto una frenata economica. Quindi il paradosso è che potrebbe nascere, come già è successo in passato, una decelerazione, un rallentamento marcato a livello globale che viene proprio dal nostro, dai mercati finanziari. Se questa volatilità non... Cioè sarebbe quella che gli inglesi... Qui oggi la puntata sembra English 24. Comunque, quello che gli inglesi chiamano self-fulfilling prophecies, cioè profezie che si autoavverano. A forza di avere mercati che sono negativi, poi anche l'economia peggiora. Faccio notare che ha ragione chi scrive che vanno male anche titoli come Ferrari, come titoli, ha ragione, verissimo. Bisogna distinguere. Vanno male tutte le borse asiatiche ed europee da inizio anno per i timori sulla Cina e i cali continui sul prezzo del petrolio. Questa è la cornice. Dentro questa cornice, però, noi abbiamo un calo superiore ogni volta che il mercato va giù di un punto e mezzo, e si chiamano banche. Non stiamo dicendo che siano solo le banche a andar male. Grazie Couturio, mi auguro che lei abbia ragione, perché vuol dire che prima o poi vi saranno risalite anche dei valori dei titoli bancari di questo paese e in questo listino. Quindi lei non ritiene che ci sia una pressione per poi andare a obbligare le banche a vendere le garanzie a prezzo di sconto o a comprarsi le banche a prezzo di sconto? No, no, sinceramente no. Non mi sembra che ci sia proprio la fila di banche estere che voglia entrare nel nostro paese sul sistema bancario, quindi questo scenario tenderei ad escluderlo. Allora, vedo anche che c'è chi mi scrive: lei è sto poco educato a chiedere cosa ha comprato e cosa ha venduto, è una cosa un po' elegante. E che devo chiedere a un gestore, mi scusi, come si è vestito, dove va in vacanza, io non lo so. Grazie Andrea Couturi, traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Focus Economia. Vabbè, ciao Condina, altre notizie di borsa, perché non ne posso già più oggi. Prego, siamo a metà programma. Mi sembra che casi specifici ce ne siano molti pochi, però ci troviamo Jux, Net-a-Porter, Generali e chiaramente Mediobanca. Bene, poi c'è Saipem, c'è sempre Saipem. Un magnifico aumento di capitale. Alla fine arriva Saipem, per parafrasare un famoso programma in questo momento. Ferragamo più 1,40, Tod's più 0,70, Tenaris più 0,30. I migliori: Ferrari meno 0,15, bene anch'essi. Italcementi meno 0,19, bene anch'essi. Eni meno 0,40. Cito quelli che perdono meno: Prismian meno 0,50, Terna meno 0,60. A2A meno 0,70, Luxottica meno 0,80, Moncler meno 1,12, come Atlantia e Snam. Dacci oggi Saipem. Saipem oggi il diritto si è dimezzato il valore, una seduta veramente drammatica. L'azione ha perso non tantissimo, però quello che ci interessa è il diritto più l'azione, cioè i due valori sommati che poi si possono confrontare con il valore dell'azione all'inizio dell'aumento di capitale. In tutto è meno 40%, da inizio aumento meno 70%. Ok, si fa per dire, non so più che termine usare, anche ok è un inglesismo. In realtà poi oggi il petrolio recupera il 5%, quindi questo crollo è ancora più ed è su tutta la borsa europea, attenzione bene. Peggiori titoli, no, non è più il Banco Popolare, che comunque ha perso il 10% a 7,99€, Dime Group meno 11,70, Energetica Motor Company meno 11,90, per quello che riguarda i migliori, Key Group più 11, Invest più 9,93, Louis Vuitton Moneysi più 7,70, Energy Lab più 4,30, Masi Agricola più 3,50, ma sì, beviamoci sopra perché veramente non se ne può più. Grazie a Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, perché ce l'ha con gli inglesismi, perché chi usa gli inglesismi o se la tira o non sa il termine in italiano e quindi non ha capito bene che cosa sta dicendo. Passiamo agli inglesismi nei nostri rapporti con l'Europa, va là. Allora, il ministro dell'economia Padoan ha detto, insomma, per quello che riguarda i rapporti con l'Europa, attenzione sulla flessibilità dei conti pubblici, è arrivata la risposta a Weber di ieri, ha detto la risposta sia breve, l'incertezza non aiuta. Quanto ho? Tre minuti scarsi? Sentiamo Padoan, se ce la facciamo sto giro. L'impostazione di politica economica del governo quest'anno e gli anni successivi non cambia. C'è un'agenda di riforme strutturali che servono alla crescita, c'è un'agenda di investimenti pubblici. Questo permette di utilizzare le clausole di flessibilità, che io ho sempre considerato non come un indebolimento della disciplina, ma come un sistema di incentivi appunto a fare riforme e a fare investimenti. L'Italia chiede entro i margini previsti dalla Commissione di utilizzare questi margini, quindi non c'è nulla che non sia compatibile con quelle regole. Non chiede nuova flessibilità, come ho visto dire da autorevoli esponenti italiani e europei. Non stiamo chiedendo nulla di nuovo, tutto ciò è incluso nella legge di stabilità che è stata approvata dal Parlamento. Per gli anni successivi continua il processo di consolidamento, il deficit si riduce, il debito comincia a scendere da quest'anno e quindi c'è una compatibilità assoluta tra politiche di bilancio e politiche di riforme. Nell'ambito delle richieste compatibili con le regole europee, ci auguriamo semplicemente che la risposta sull'ammissibilità di queste richieste sia sciolta presto da parte della Commissione, quindi evitare di continuare ad avere un'incertezza che non aiuta sicuramente la crescita. Allora, Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi abbiamo letto sui giornali molte ricostruzioni di un'Europa, sia sui commissari, sia sul PPE e anche i socialisti europei, sempre più insofferente nei confronti dell'atteggiamento del governo italiano nei confronti dell'Europa, che era la linea di Adriana Cerretelli. Cos'è che, qual è l'obiettivo di Renzi? Perché tu hai scritto, insomma, l'obiettivo è la flessibilità e la manovra 2017, ho capito bene? Beh sì, quella è la partita più rilevante perché se si fanno due conti, poiché noi dal prossimo anno dovremo comunque disattivare delle clausole di salvaguardia, vale a dire il possibile aumento dell'IVA e delle accise, perché l'abbiamo evitato solo per quest'anno, mentre pende ancora per il 2017 e anche il 2018 per un totale di 35 miliardi. Mm. Se non ci sarà nuova flessibilità europea e queste risorse andranno trovate altrove, quindi legge, aumento di tasse, tagli di spesa, e dunque la partita è in prevalenza lì. Allora, il concetto è, se Bruxelles ci dice noi vi diamo una parte della flessibilità, perché probabilmente non tutta quella chiesta verrà accordata, è possibile riottenerla il prossimo anno oppure è un'operazione una tantum? Ed è esattamente questo il problema, perché se è un'operazione una tantum non possiamo invocarla nuovamente e siamo sul terreno delle interpretazioni. Perché... Allora, no, Dino, resta con me perché è fondamentale, perché adesso in questi giorni ci siamo occupati sempre dello scontro con Bruxelles, però tu sposti l'obiettivo non tanto alla legge finanziaria che deve essere analizzata adesso, ma quella del 2017. Ti riprendo dopo il GR24 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp e poi sarà nostro ospite il numero 2 Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Focus Economia. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso, ripeto, ascolteremo anche l'intervista che abbiamo realizzato con il numero uno di Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. Volevo concludere però con Dino Pesola, che ha ben chiarito come l'obiettivo di fondo, diciamo, di questo scontro o comunque botta e risposta con l'Europa per quello che riguarda Renzi sia non tanto la manovra 2016, Dino, ma la manovra 2017. E i numeri su questo, sul 2017. Allora, prego. I numeri sono sostanzialmente questi, poiché dobbiamo, come dicevamo prima, provare a disinnescare l'aumento dell'IVA che altrimenti scatterà dal prossimo anno. Le clausole di salvaguardia, certo. E questi sono 15 miliardi. Mm-hmm. Bisogna aggiungerci il taglio del deficit che ci chiede Bruxelles, perché quest'anno noi non l'abbiamo fatto, che è pari allo 0,5% del PIL, quindi deve aggiungerci almeno altri 7 miliardi, e così a bocce ferme, senza poter fare null'altro, servono 22. Sarebbero 22-23 miliardi che dovremmo mettere in campo senza poter fruire di ulteriori, chiamiamoli sconti, chiamiamoli flessibilità, come vogliamo definirli, da parte di Bruxelles. Se questo è lo scenario, è tutto evidente che è una situazione, come dire, un po' problematica, tanto per usare un eufemismo, perché a quel punto dove andare a recuperare le risorse, ad esempio, certo, per finanziare il taglio dell'IRES, come è nei programmi del governo. E quindi la partita è questa, cioè sperare di spuntare da Bruxelles ulteriori margini per poter finanziare anche quest'anno in deficit, di cui stiamo parlando, il mancato aumento dell'IVA. Chiaro. Se questo non avverrà, sarà un bel problema. E vedremo come si concluderà e quando si concluderà questa botta e risposta con Bruxelles. Grazie intanto a Dino Pesole per questa precisazione, visto che ieri abbiamo ragionato con Adriana Ceretelli invece di come l'Europa inizia ad avere mal di pancia di queste posizioni italiane. Adesso invece vorrei tornare sul tema delle banche e della banca più massacrata in questi giorni dal mercato, e mi riferisco al Monte dei Paschi di Siena. Ne abbiamo parlato infatti con il numero uno, Fabrizio Viola, a cui abbiamo chiesto in primo luogo se si sia dato una spiegazione, che spiegazione si dia di questo calo continuativo su tutte le banche, in particolare su Monte dei Paschi di Siena, in che cosa è cambiato rispetto a novembre e dicembre. Come sempre, quando si esaminano andamenti di borsa è difficile fare delle analisi oggettive, anche perché i mercati ormai ci hanno abituato nel corso degli anni a registrare andamenti in cui sopravvalutavano magari aspetti positivi e fondamentali sia macro che micro, con invece andamenti molto negativi in cui si sono sottovalutati questi aspetti, e quindi ha avuto la meglio speculazione, in alcuni casi anche il panico. Devo dire che il 2016 certamente si è aperto all'insegna di questo mercato ribassista, che peraltro a mio avviso ha radici più profonde rispetto al settore bancario, perché si è registrato in un contesto macroeconomico difficile in cui ci sono tutta una serie di incertezze e di rischi. In questo contesto il cambio della normativa che ha introdotto il bail-in, le iniziative della BCE su non performing loans, che sono stati peraltro mal interpretati dal mercato, come più volte hanno ribadito i vertici della medesima banca, sono a mio avviso alla base di questo andamento. Ecco, quanto riuscirete però a reggere in questo modo? Nel senso che il Monte dei Paschi, qui vengo allo specifico della banca che lei guida, ha perso oltre il 50% del valore delle azioni, sostanzialmente a mezzo euro, da 1,17 euro, al di là della variazione di oggi, da inizio anno. Avete bruciato l'aumento di capitale di giugno. Le chiedo, secondo lei, insomma, siete tornati all'utile nel 2015, avete dato la settimana scorsa un bilancio in cui l'utile è tornato, 319 milioni, 6% in aumento dei ricavi e 5% di calo dei costi, ma con questo valore del titolo quanto riuscite a reggere? Io credo che il valore del titolo sia certamente una variabile da tenere sotto controllo, soprattutto perché, come è ovvio, è un indice di soddisfazione dei nostri azionisti, e questo lo dobbiamo tenere sempre molto presente. Però se ragioniamo in termini di capacità di reggere, io credo che abbia un effetto non determinante, in quanto è vero che abbiamo bruciato da un punto di vista borsistico un aumento di capitale, ma è anche vero che la banca oggi è dotata di quasi 10 miliardi di patrimonio netto di bilancio, che si confronta con circa 1,7 miliardi di valore di mercato. Questi sono numeri che secondo me devono far riflettere sia chi oggi vende, sia chi secondo me è interessato anche eventualmente all'acquisto, e immagino che ci siano anche investitori interessati a questo tipo di operazione. Da un punto di vista della banca, devo dire, noi abbiamo anticipato i numeri perché volevamo dare un chiaro segnale ai nostri clienti, ai nostri dipendenti e anche ai nostri azionisti che la salute è buona, anzi è migliorata negli ultimi mesi, e credo che questo sia la base più importante per rispondere alla sua domanda. La banca ha la capacità di reggere, chiaramente siamo molto attenti affinché si creino le condizioni sul mercato perché questa situazione di mercato abbia fine, e qui noi a dover attivarci, ma ci sono altri soggetti che stanno lavorando perché si ricreino delle condizioni più fisiologiche sul mercato. Per esempio chi, mi scusi? Quello che sta facendo il governo, ad esempio, sul fronte della soluzione dei non performing exposure è un esempio, che non è solo questa soluzione, che peraltro di cui poi conosceremo i dettagli, credo, col decreto. Domani col decreto, che, come ho avuto modo di dire, certamente non è un passo determinante, ma è un primo passo. Secondo me conviene aspettare prima di tirare le conclusioni definitive anche in termini di impatto quantitativo, perché quello che oggi si fa fatica a misurare è la cosiddetta elasticità della domanda di acquisto di nuove sofferenze a questo nuovo provvedimento, che ovviamente ha bisogno di tempo per essere misurata, ma anche e soprattutto i provvedimenti che auspico il governo prenderà per migliorare i processi di recupero di crediti in sofferenza, per allinearci a quelli che sono. Ecco, lo spiego a tutti, il problema è qui questo, che le banche italiane, anche molte dei Paschi, hanno come garanzie collaterali spesso, per esempio, immobili di vario genere. C'è un problema nella capacità che in questo paese si ha con il diritto civile che abbiamo di recuperare, lo dico in maniera un po' brutale, di recuperare queste garanzie. Se ci vogliono 5, 6, 7 anni è chiaro che tutto diventa più complicato. Se ci fosse un decreto che va a snellire le procedure di recupero delle garanzie e quindi dei collaterali messi a garanzia di crediti che i soggetti non possono più ritornare, è chiaro che anche per voi, dico voi come sistema bancario, questo significherebbe poter contare su un recupero, diciamo, di crediti in tempi ragionevoli, se ho ben capito lo scenario. Senta, Viola, però lei dice, insomma, noi possiamo reggere, abbiamo 10 miliardi di patrimonio e quindi il titolo, per carità, lo guardiamo con attenzione, ma non è quello che non ci permetterà di reggere. Lei sa però che le opinioni pubbliche e i correntisti il titolo lo guardano con molta attenzione. Certo. State notando un'uscita di depositi dalle banche? Allora, è chiaro che in una banca l'andamento del titolo è una specie di termometro che misura appunto la temperatura, che poi influenza il comportamento anche dei clienti. Quello che è successo nelle settimane scorse è stato certamente un aumento della preoccupazione da parte dei clienti, mi risulta, non solo del Monte dei Paschi ma anche di altre banche, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di questa nuova normativa del bail-in. Devo dire che qui la rete ha fatto un lavoro straordinario di informazione che è stato reso possibile anche con la pubblicazione dei dati, e negli ultimi giorni abbiamo registrato un decisa cambiamento nel mood e anche nei flussi, che ci porta sostanzialmente a dire che anche con la disponibilità di liquidità che avevamo all'inizio dell'anno, questa fase possa essere gestita. Oh, questa è la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato poco prima della diretta con Fabrizio Viola, traffico, e poi la seconda parte in cui ci concentriamo soprattutto sul Monte dei Paschi e sui matrimoni, sposo, marito che sia, ipotizzabili per il Monte dei Paschi di Siena. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, torniamo all'intervista con Fabrizio Viola, ministro delegato del Monte dei Paschi di Siena. Gli abbiamo chiesto se, al di là del clima negativo terribile anche oggi dei mercati sui titoli bancari italiani, c'è poi il tema dei matrimoni. Allora, il Monte dei Paschi è sembrato a tutti essere più debole, anche perché è sembrato a tutti essere la sposa o il marito, in tema di unioni civili, non mi sbilancio, meno ambito. E allora, prima si pensava a un ménage à trois anche con BPM e con altre banche, poi in realtà BPM sappiamo che è andata e c'è anche una conferma del mercato che si va avanti verso la fusione col Banco Popolare, o una notizia di poco fa. E insomma, la sensazione è che l'idea di restare da soli sia un indebolimento, e insomma non è un periodo per restare né zitelle né scapoli. Ma allora, premesso che questa visione è naturale che ci sia, soprattutto per quanto si è parlato di questa attività di consolidamento, di attività di aggregazione e quant'altro. Devo riconoscere però che se guardiamo gli ultimi 12-18 mesi non mi sembra che in Europa di matrimoni ci siano stati. Negli ultimi settimane, negli ultimi mesi in Italia si è parlato molto di matrimoni, ancora devo vedere il primo. Quindi certamente il Monte dei Paschi, soprattutto per le sue dimensioni, diciamo che è una sposa che ha bisogno e che deve trovare un marito adeguato. Dopodiché dobbiamo essere anche consapevoli che, ripeto, si è parlato molto di matrimoni, ma ad oggi, sia in Italia, aggiungo anche in Europa, di matrimoni non ce ne sono stati, e credo che il motivo sia abbastanza facile da capire. Quelle incertezze che hanno influenzato il mercato azionario e soprattutto il settore bancario nelle ultime settimane, la incertezza sul piano regolamentare delle dotazioni di capitale che hanno interessato tutte le banche europee, perché non dimentichiamo che in ottobre tutto il sistema bancario europeo è stato oggetto del nuovo esercizio cosiddetto SREP, dove diciamo sono state fissate le soglie di capitale. Prima di questo esercizio diciamo che c'era una certa incertezza abbastanza diffusa. Da ultimo anche il fatto, e questo non bisogna ignorarlo, che nel sistema bancario non solo nazionale ma anche europeo è nata una trasformazione che è anche la conseguenza dei comportamenti dei clienti, dove si usano sempre meno filiali e si usano sempre più canali cosiddetti internet. Questo chiaramente pone anche dei temi futuri sul nuovo modello di banche, quindi insomma, mettendo tutto. Però diciamo nella vita, dottor Viola, nella vita uno però un'idea di un partner, ripeto, non mi interessa il sesso, ce l'ha. Allora io vorrei sapere, lei vede, le piacerebbe, insomma, vede un partner possibile tra i pretendenti italiani o magari un partner spagnolo? Si è parlato del Santander, cioè, viste le dimensioni della banca che lei ricordava, e siamo d'accordo, il Monte dei Paschi non è una delle popolari, diciamo, classiche, per carità, con massimo rispetto, ma con dimensioni un po' più territoriale, un po' più locale. Il Monte dei Paschi è ingombrante come banca, cioè è una sposa o un marito abbastanza, diciamo, ingombrante. Non sarebbe meglio forse cercarlo all'estero, un partner? Allora, io ho sempre detto che non faccio... Oppure moglie e buoi dei paesi tuoi? No, io non faccio questioni di nazionalità, anche perché in Europa, che dovrebbe continuare a vivere e svilupparsi, credo che in Europa, in cui il sistema bancario si è dotato di un sistema unico di vigilanza, credo che operazioni cross border, quindi operazioni anche con soggetti esteri, siano benvenute. Quello che è importante è che ci sia un disegno industriale sottostante che crei valore per gli azionisti e che dia poi la possibilità ai clienti di avere un servizio possibilmente migliore. Quindi io non faccio assolutamente nessun tipo di differenza sulla nazionalità. L'importante appunto che siano partner, che siano banche che abbiano le caratteristiche anche di solidità per un matrimonio di questo tipo. Ma quindi se lo dicessi UBI, BPR, quindi Popolare Emilia Romagna o Santander, lei non avrebbe una preferenza tra queste tre? No, devo dire che dovrebbe avere evidentemente una dimensione, una solidità patrimoniale in grado di supportare un matrimonio di questo tipo. Quindi non la Popolare Emilia Romagna da cui lei viene, mi sembra di capire, insomma. Ma la Popolare Emilia Romagna mi sembra che abbia tra l'altro altri obiettivi, quindi non la escludo io, credo che si escluda da sola. Senta, un'ultima domanda, Viola, lei come dorme in questo periodo? Io dormo bene, questa è una gran fortuna perché mi consente di gestire queste giornate che, come potete immaginare, non sono facilissime. Ma però... quando dorme male, perché dorme male? Adesso, qualche volta capiterà, al di là diciamo della vita privata, uno può anche avere problemi di digestione, ma insomma quando dorme male, lei ha capito dove voglio arrivare, cos'è la cosa che più la preoccupa? Ma la cosa che più mi preoccupa oggi è che si trovi una soluzione a questa situazione che riguarda il sistema bancario italiano e la consapevolezza che un paese come l'Italia, che vuole riprendere a crescere, deve avere un sistema bancario forte, quindi non possiamo fare a meno di questa componente. E la cosa che la tira, come si dice in gergo poco finanziario, la tira a scemo, cioè che lei riesce a capire meno di quello che sta capitando, qual è? Perché insomma, chiaro che non è che il mercato si muova sulla base della follia, però onestamente, lo dico non perché mi interessi difendere Monte dei Paschi o altre banche, anche oggi, cioè insomma... La cosa che le fa battere la testa contro il muro, qual è? Ma che più che mi fa battere la testa contro il muro, che non capisco, e mi lasci dire che insomma non ho un po' di anni sulla schiena e una parte di questi anni li ho spesi sui mercati, quindi facevo il mestiere di chi oggi opera sul mercato . E onestamente una dinamica del mercato con quello che ho visto nell'ultimo mese non la ricordo e onestamente non la capisco, perché di solito i mercati, anche i mercati più orso, diciamo così, per usare una terminologia conosciuta dai più, hanno anche delle fasi di rimbalzo, di consolidamento eccetera. Questo devo dire è una dinamica di mercato che ho visto, che non ricordo, ecco, mettiamola così. Quindi, cioè non è mai successo di vedere un mercato così negativo, dicono gli inglesi bearish, cioè così orso senza soluzioni di continuità, sì. Per cui, ma non teme che ci sia sotto qualcos'altro? La domanda sarà fatta, cioè ci può essere interesse di qualcuno ad abbattere così tanto i valori dei titoli bancari a partire dal vostro, per poi andare a prendere a prezzi di saldo non solo la banca ma anche le garanzie che questa banca ha, i collaterali? Questa è una prospettiva affascinante, nel senso affascinante, insomma, no, affascinante come nel un senso, incubo, no, sì, ma come chiave di lettura, no? Nel senso che insomma, dopodiché per carattere sono poco propenso a sviluppare queste tesi un po' complottiste, un po' col disegno di poche persone che muovono il mercato, e mi fermo lì. Certo è che devo dire che mai come in questo periodo ho avuto la tentazione di sposare questa tesi. Beh, in bocca al lupo a lei, ma soprattutto ai correntisti e ai dipendenti del Monte dei Paschi di Siena, perché ripeto, al di là di come la banca sta gestendo in passato, una banca è un patrimonio per tutti, a partire dai correntisti e poi anche dai creditori della banca. Lei si aspetta che prima o poi le cose cambino? Io me lo aspetto. Mi lasci dire che oltre che i correntisti, anche gli azionisti ovviamente, ma anche le oltre 220.000 piccole imprese e le oltre 50.000 medie imprese a cui noi prestiamo oltre 100 miliardi di euro di impieghi, che francamente anche grazie ai nostri impieghi funzionano, e quindi insomma credo che oggi c'è una grande attenzione sui correntisti, che hanno tutta la mia la massima attenzione, però non dobbiamo dimenticare che questi risparmi servono per far funzionare un pezzo dell'economia italiana. Così appunto Fabrizio Viola, poco prima che iniziasse il programma, leggo un'ultima notizia che riguarda, tanto per cambiare la puntata di oggi, le banche. La Banca Popolare di Milano potrebbe arrivare ad un accordo in massima con il Banco Popolare tra l'ultima settimana di febbraio e la prima di marzo. I contatti con gli advisor sono serrati e un'accelerazione è attesa a valle dell'approvazione dei conti in agenda la prossima settimana, quindi non è vero che si è fermata l'operazione, anzi sembra che abbia un'accelerazione. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un augurio di buona serata comunque da parte di Sebastiano Barigioni. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.